son venuto con la pioggia e torno con la pioggia. È un piacere accompagnare le signore a casa messa. Che stanotte ti va, precisa, scoprimi, sorpresa. Son venuto con la pioggia e torno con la pioggia. È un piacere accompagnare le signore a casa messa. Che stanotte ti va, precisa, scoprimi, sorpresa. Paga se vuoi vivere effetti distanti, vergini e capelli crespi, liberi di sciogliersi in fili attorcigliati lungo le cosce. Chiudo le finestre, fuggo per crescere. Segnaia nuoro, spiaggia senza sabbia, neanche acqua, spalmi sulla pelle. Confettura d'un rosso brillante, investita da parti ancora calde di fragole, autoritratti. Ogni distanza un limite, ogni chiave ingresso, sigla vuota a rendere, scuola, niente da perdere. Non si ritratta, mica genio e tecnica, mica una foto vecchia, nascondila, non è la verità. Non è vergogna, senza mezzi, senza testi, non è neanche musica. Consumo penne tanto per intenderci, scommettici, cosmetici, risaltano scheletri e fiori a vetri. Gelosie per caso, fatte di borse di raso e sabati per Rades. Domenica riso, mangia dei bovi, muce le labbra, morde lingue di ottima fattura, trattasi di... Son venuto con la pioggia e torno con la pioggia. È un piacere accompagnare le signore a casa messa. Che stanotte ti va, precisa, scoprimi, sorpresa. Son venuto con la pioggia e torno con la pioggia. È un piacere accompagnare le signore a casa messa. Che stanotte ti va, precisa, scoprimi, sorpresa. Perso nell'oscuro dei tuoi sogni come un'arma, verrò a prenderti nel sonno per distruggerti. Non cercare di scappare, è impossibile. Riuscire a fuggire, riuscire a scappare lontano dai tuoi incubi. Io ci godo nel vederti soffrire, nel vederti tremare, andare verso posti sconosciuti per salvarti, per crearti una fortezza inesistente, frutto della tua immaginazione. Ti credi in te stesso, ti capita spesso, ora che sei solo, come ci si senta non aver nessuno, qualcuno che ti ascolti, che ti parli quando hai bisogno di aiuto. Cresciuto troppo in fretta per poter sognare, ora capisci quel che si prova, quel che si sente. Quando al mattino trovi il vuoto intorno a te, è il minimo che poteva capitarti dopo quel che hai fatto a me. Ora tocca a te, vuoi soffrire? Con la pioggia intorno con la pioggia. È un piacere accompagnare le signore a casa messa. Che stanotte ti va, precisa, scoprimi, sorpresa. Son venuto con la pioggia e torno con la pioggia. È un piacere accompagnare le signore a casa messa. Che stanotte ti va, precisa, scoprimi, sorpresa.